Questo è il cammino dei cigni dello stile. Votare questo brano, vai sul sito www.gigidag.com. Baby. Appuntamento in discoteca. Sabato 10 giugno 2006, e cioè questo sabato, ci vediamo alla discoteca La Duchessa, Billy Oblì, Kickass, via Marsicana 4, Corvaro, in provincia di Rieti. Arrivate presto perché la musica comincia alle 23:30. È vero, è vero. Di Gigi D'Agostino ogni giorno alle 18 prova a dare qualche indicazione, prova a indicarvi qualche sentiero nuovo, diverso o che magari conoscete già. Ci prova. Capisci un po' sta musica?

Io non li sopporto quelli che cominciano le frasi e poi non le finiscono. Secondo me... Dai un po'. Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Signore e signori, Gigi D'Agostino. Bravo. Grazie. Thank you. ora in poi, ascolta ciò che vuoi. Dal tuo salotto alle 18, famo il botto. Sì, sì. Bocacci, via questo. Thank you. ti piace così la storia e la scrivi la tu, magari più bella. Se non ti piace così la storia e la scrivi la tu, magari più bella. Magari più bella.